La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccomi tornato dopo stamattina, ma comunque per chi fosse in ascolto per la prima volta, grazie all'ascolto in diretta o in podcast qui della versione di Oscar. Sono le 16:30, primi 40 secondi in questo momento agli studi di Milano. Dico subito l'argomento della puntata per sollecitarvi a chiamare e dire la vostra all'800240024 per gli sms, lo sapete, 3492386666. La puntata è dedicata a tantissimi italiani, cioè l'intera comunità scolastica italiana, a tutti coloro che insegnano nelle scuole di ogni ordine e grado, a chi le frequenta e ai familiari ovviamente dei ragazzi e degli studenti. Perché? Perché affronteremo il tema che oggi, tra l'altro, è trattato a pagina 18 e 19 di Repubblica, con articoli firmati da Laura Montanari e Valeria Strambi, è dedicato al tema del premio di merito, quindi la parte di retribuzione del premio di merito dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Quindi stiamo parlando di 8.500 scuole con 750.000 docenti interessati. La riforma del governo, qualche parola per spiegare meglio di che si tratta. La domanda per voi è: ci dite cosa sta succedendo nella vostra scuola? Vi sembra un buon criterio quello con cui si pensa nella vostra scuola di attribuirlo, scegliendo tra gli insegnanti, oppure no? Ecco, per quale ragione? Qualche dettaglio per chi non lo sapesse: la riforma Buona Scuola ha previsto per la prima volta una parte di retribuzione dei docenti legata appunto al merito. Sono stati stanziati 200 milioni di euro per questo 2016, quindi facendo la ripartizione tra 8.500 scuole viene più o meno una media a istituto di 23.000 euro lordi da suddividere tra un numero limitato di docenti. Non si può a sfidarlo a tutti in maniera uguale, perché i premiati devono essere per forza compresi in una forbice tra il 10 e il 30% del corpo docente, ricevendo dai 500 euro lordi in su. Il governo però non ha indicato di preciso, io avrei preferito così perché ce ne siamo già occupati in due puntate ai tempi della Buona Scuola, i criteri attraverso i quali attribuire il salario di merito, ma li ha lasciati a una sperimentazione che durerà 3 anni. Come funziona questa sperimentazione? Ogni istituto, quindi avvalendosi della sua autonomia, ha un comitato di valutazione che deve scegliere i criteri di valutazione tra i docenti. Come è formato questo comitato di valutazione? Ogni istituto ha un comitato che è composto dal dirigente scolastico, dal preside della scuola, da un membro esterno individuato dal MIUR. In altri paesi sono gli ispettori esterni che in realtà fanno le valutazioni nelle scuole, però qui il criterio è un comitato di valutazione formato dal preside, da un membro esterno dell'apparato del MIUR, poi da 3 insegnanti e 2 genitori, ma per le scuole superiori al posto di 2 genitori c'è un genitore e uno studente. E questo comitato è chiamato appunto a individuare i criteri, stabilisce i criteri. L'ultima parola spetta al dirigente scolastico, al preside. Ne parlammo già, e adesso però che si tratta di decidere, partono le possibili polemiche, no? Perché è il preside a stabilire la percentuale dei premiati, e se la somma varia da persona a persona secondo i diversi criteri. Il tempo a disposizione del comitato di valutazione è fino al 31 agosto, la data però è già partita, ovviamente per l'anno in corso già molte scuole ci hanno pensato. È messa a disposizione di ogni istituto una specie di consultazione per i criteri sul sito del Ministero e su quello dell'INDIRE. Che cos'è l'INDIRE? È l'Istituto di Ricerca e Innovazione per la Didattica. Per capire meglio, attraverso queste due piattaforme, se i criteri a cui pensano i membri dei comitati di valutazione di ogni istituto siano fondati o meno. Se oggi sfogliate le due pagine di Repubblica, che hanno una ricca offerta, i due colleghi hanno lavorato a fondo, Laura Montanari e Valeria Strambi, perché hanno sentito alcune scuole, istituti di Torino, Milano, Genova, Parma, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, e troverete che i criteri sono in realtà, su cui si stanno muovendo le prime scuole di cui si ha notizia, i più vari e diversi. C'è chi pensa, cosa che a me convince molto, per esempio, sta venendo al liceo Mamiani di Roma, a premiare soprattutto gli insegnanti i cui alunni hanno il miglior verificato aumento del profitto, quindi stiamo parlando di un indicatore di aumento della qualità, no? Che è, misura l'efficacia del servizio offerto dai docenti. C'è chi pensa alla disciplina, c'è chi pensa a gratifiche per attività extracurricolari, cioè per chi porta i ragazzi a teatro o organizza il maggior numero di attività oltre quelle, diciamo così, curricolari e di programma. Ci sono polemiche tra docenti e genitori, per esempio a Parma. Ci sono a Genova impasse con i docenti e dirigenti scolastici che dicono: beh, veramente noi abbiamo timore con questa sperimentazione in nome dell'autonomia di creare bracci di ferro tra noi docenti, e quindi i criteri, siccome li dobbiamo scegliere noi, ci esporranno inevitabilmente a spaccature, polemiche, litigi. Naturalmente tutte le opinioni sono aperte, e su questo i sindacati hanno la loro opinione anch'essi. È riportato nel corpo dell'articolo l'opinione della CGIL. La CGIL si oppone, vi leggo il virgolettato: stiamo raccogliendo le firme per un referendum e uno dei quattro punti, dice la CGIL Scuola, è proprio sui premi ai docenti. Gli incentivi vanno distribuiti a un tavolo con le rappresentanze sindacali, non certo a discrezione dei dirigenti d'istituto, ed è Anna Maria Santoro della CGIL Scuola a dirlo. Tesi che a me lascia molto perplesso, però questa puntata è per capire meglio che cosa ci aspetta, se andremo di fronte a una realtà iperdiversificata nell'individuare criteri di merito, magari con minime differenziazioni, oppure no, e soprattutto la mia curiosità sarebbe di capire come la pensate voi, padri, madri, sorelle, docenti e naturalmente studenti, anche se a quest'ora è un po' complicato per gli studenti sentire la nostra trasmissione e intervenire. Diteci la vostra, ma intanto sentiamo come pensano, quel che pensano i nostri ospiti. Abbiamo con noi innanzitutto il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che prevedo facilmente si troverà al centro delle polemiche, non lui, ma la figura del dirigente scolastico, il presidente Giorgio Rembaudo. Grazie di essere con noi. Grazie a voi dell'invito e buona giornata, buon pomeriggio. E per i sindacati abbiamo qui con noi il segretario generale nazionale della UIL Scuola, Pino Turi. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio anche a lei e ai suoi ascoltatori. Posso partire proprio da lei, Turi. Voi rispetto alle linee, alle righe che ho letto della CGIL Scuola, come la pensate? Allo stesso modo? Noi su questo ci siamo già espressi da tempo. La questione che non ci convince è che con questa 107, quindi con il bonus e la scelta diretta, si introduce un condizionamento da parte del docente, che dovrebbe essere libero di poter esprimere le proprie opinioni, e una scuola autonoma in cui non si respira aria di libertà è una scuola che nasce male. Ecco perché noi siamo contrari. Del resto lei è stato molto bravo a descrivere, ma ha avuto difficoltà a descrivere quello che per noi non è merito, perché tanto è vero che si chiama bonus, e questa sta diventando ormai una consuetudine di fare. Io conoscevo la dieta a punti, qua si sta incominciando a fare il merito a punti. Quindi siamo contrari per questi motivi. Perché, aspetti, spieghi meglio però. Lei dice è un'influenza impropria a cui è sottoposta la libertà del docente. In che cosa consisterebbe? Perché se il docente deve essere condizionato in una scelta didattica dal fatto che poi il dirigente, sulla base di un comitato di valutazione variopinto come l'ha descritto lei, decide a chi dare e chi non dare il bonus, è ovvio che è condizionante. Quindi senza un criterio che, come poteva essere la contrattazione. La contrattazione non distribuisce soldi a pioggia, ma dà dei criteri confrontandosi. In questo caso non c'è nessun confronto, c'è soltanto il dirigente che sulla base di criteri asettici, lei ha detto c'è chi pensa in una maniera, c'è chi pensa in un'altra, deciderà a chi assegnare il bonus. Noi riteniamo che sia un errore. Perché voi contro proporreste una trattativa con il sindacato per individuare i criteri? In verità siamo siamo alla vigilia di un rinnovo del contratto nazionale di lavoro e di merito vorremmo parlare sul serio, ma di un qualche cosa che abbia, che non sia contingente alla distribuzione di premi e quotidiani, ma un sistema di valutazione del merito che può essere un sistema di carriere. Noi per la verità nel contratto nazionale passato, 9 anni fa, l'abbiamo già inserite, non si è mai realizzato per mancanza di risorse e di un'idea. Noi siamo disponibili e sfidiamo il governo sul merito, ma questo del bonus è esattamente il contrario, mi sembra appunto una sorta di reality, un talent per vedere chi è il docente più bravo. Noi abbiamo visto già delle circolari di alcune scuole che prevedono una convocazione dei genitori che possono con un questionario anonimo individuare gli insegnanti da premiare. Così si indebolisce l'autorevolezza del docente, si sta indebolendo la scuola pubblica. Questo è il nostro appello a chi può rifletta. Naturalmente questo significa che però siete, come i criteri, diciamo così, di una trattativa contrattuale leverebbero la prerogativa all'autonomia di ogni istituto, anche l'autonomia non vi convince? E perché noi vogliamo contrattare scuola per scuola, con il dirigente scolastico non c'è nessun problema, sono i dirigenti scolastici che si stanno sottraendo a questa questione, per la verità la legge, non è anche loro, perché molti dirigenti scolastici hanno sempre contrattato l'assegnazione del cosiddetto fondo di istituto, che non è altro che una sorta di riconoscimento dell'attività del docente, degli ATA, del tutto il personale. Quindi cambiare soluzione e non passare più attraverso la contrattazione significa dare al dirigente un ruolo improprio di autorità salariale. Il dirigente di per sé una persona che ha bisogno di una leadership e l'autorevolezza gli deve essere riconosciuta, non data dall'alto. Allora, naturalmente questa obiezione, cari ascoltatori, come capite è un'obiezione frontale, perché in realtà io temo che ha un effetto, ma non è che temo, è un fatto oggettivo. Quando la riforma Madia, per quello che riguarda tutti i 4 adesso riformati e accentrati comparti della pubblica amministrazione rispetto ai precedenti 11, vuole pensare a introdurre dei criteri di salario di merito, comunque la pensiate, e le obiezioni diventano altrettanto forti. La differenza è che qui è partita una sperimentazione a prescindere e prima dei nuovi contrattuali, e diciamo il governo da una parte ha messo soldi, dall'altra si è un po' lavato le mani dicendo fate voi per 3 anni e poi vedremo, che a me non ha convinto, infatti io all'epoca ho criticato per questo, pur essendo a favore del merito vero e deciso da chi lo deve decidere. Altrove per esempio c'è un ente terzo di valutazione, proprio per evitare di lasciare il dirigente scolastico in pasto alle inevitabili polemiche che chi per una ragione e chi per l'altro, l'avete appena sentito dal fronte sindacale, inevitabilmente con un sistema aperto, sperimentale, ma in cui il dirigente che all'ultima parola finiscono per esplodere. Sentiamo invece che ci dice il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Rembado. Voi che ne pensate? Ma intanto noi siamo sempre stati favorevoli alla valutazione del merito e siamo sempre stati molto critici rispetto al fatto che se ne è parlato per anni e per decenni senza che questo venisse minimamente introdotto nel nostro paese. Basterebbe dire che quella del docente è l'unica carriera senza carriera, entra docente di ruolo ad un certo periodo della propria vita professionale e dopo 20, 30 anni, 40 se gli va bene, ne esce, va in pensione con lo stesso identico tipo di riconoscimento, cioè nessuno. Questa è la prima cosa che mi pare necessario sottolineare. Si diceva prima, sentivo dire prima che si potrebbe decidere la cosa nei contratti, è una valutazione questa che è stata già fatta in tanti contratti diversi nel passato, per passato significa un passato remoto ormai perché siamo anche reduci da una moratoria contrattuale di 8 anni, ma comunque non tocchiamo un argomento che non c'entra con quello di questa sera. Ebbene, ogni volta che si è pensato di definire la carriera dei docenti attraverso il contratto collettivo nazionale di lavoro, non si è arrivati mai a nessuna conclusione. Ultima questione di premessa è questa: nel resto del mondo, nel resto d'Europa, in moltissimi paesi da decenni il bonus premiale è attuato e non solo non crea diciamo così, scandalo, ma soprattutto crea una scuola qualificata forse in modo migliore rispetto alle nostre. Da questo punto di vista vale la pena quindi di fare una prima distinzione. Bisogna distinguere i compensi che sono legati a una maggiore o minore quantità del lavoro svolto rispetto alla premialità che è legata alla qualità della prestazione professionale. Tra l'altro, sottolineo qualità della prestazione professionale. Ovviamente nel momento in cui, sulla base di criteri definiti dai comitati di valutazione, il dirigente individua le persone destinatarie del bonus premiale, non interviene in termini di condizionamento del docente e della libertà di opinione o della libertà di insegnamento, ma interviene valutando, verificando se nella situazione della propria scuola quei docenti corrispondono a quei criteri di qualità che il comitato di valutazione si è dato liberamente all'interno di quell'istituto. Io non sarei neppure particolarmente preoccupato del fatto che i criteri, come lei diceva, possano essere i più vari e i più diversi, perché questo fa parte per l'appunto dell'autonomia delle scuole, e quindi è difficile poter sostenere il contrario. È molto difficile poter sostenere che lo Stato centrale definisca centralisticamente dei criteri che poi vengono, diciamo, verificati nella singola scuola. Ovviamente ogni scuola è titolare di un progetto, di un'offerta formativa differenziata, e quindi in relazione agisce in un contesto economico-sociale diverso, e quindi è assolutamente logico e coerente con questo tipo di impostazione che i criteri vengano individuati all'interno della singola scuola. Allora, quello che lei dice trova conferma nel fatto, per chi fosse interessato, io ho pubblicato alcuni articoli nel corso della riforma della buona scuola che trovate tutti su www.leoniblog.it, facendo esempi di sistemi di valutazione in altri paesi europei ed extraeuropei, che effettivamente vengono tarati secondo indicatori dall'autorità scolastica più che lasciati alla libera sperimentazione, che sono diversi a seconda dell'area del paese e delle specifiche problematiche che ci sono. Cioè, in altre parole, un istituto che sta in periferie disagiate e a bassa alfabetizzazione, l'esempio classico è quello di come sono state innalzata la qualità dell'offerta formativa degli istituti secondari nelle periferie di Washington, sì, la capitale, che però è un posto dove si concentrava una miseria e un analfabetismo in gran lunga superiore a chi può immaginare. Chi non c'è mai stato, chi l'ha vista, sa che è così. E allora lì fu identificato dei criteri molto stringenti, proprio di misura del miglioramento degli standard scolastici degli studenti, e addirittura con dei criteri che venivano valutati anche con un punteggio al di sotto del quale c'era per il primo anno un richiamo, e al terzo anno addirittura c'era addirittura era giusta causa per il licenziamento. Cioè, altro che. Naturalmente questo è un caso estremo, però se andiamo a vedere anche nei paesi nord europei ci sono sistemi di valutazione molto, per così dire, accurati. C'è un'esperienza pluridecennale, anche nel Regno Unito è diventato così. Però, per carità di Dio, intanto cerchiamo di capire come funziona questa sperimentazione. Torniamo con le vostre telefonate tra un minuto. La versione di Oscar. Ed eccoci tornati in diretta, stiamo parlando dell'avvio di definizione dei criteri di valutazione per il salario premiale nelle 8.500 scuole italiane, quindi sono 750.000 docenti in ogni istituto. La riforma del governo indica un comitato di valutazione composto da un dirigente scolastico, che ha poi l'ultima parola, rappresentanti dei docenti, un delegato esterno del MIUR e degli studenti per le scuole secondarie superiori, per indicare i criteri. E siccome la sperimentazione è aperta, i criteri sono i più vari e diversi. Abbiamo sentito con noi il segretario generale della UIL Scuola, Pino Turi, che dice: no, tutto sbagliato, bisogna contrattare con il sindacato, così si influenza la libertà degli insegnanti. Il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi, Giorgio Rambaldo, che dice: no, invece al contrario, finalmente nei contratti non si è mai riuscito, lo si metteva e poi non si applicava. Questa è una componente fondamentale per misurare la qualità e l'efficienza dell'offerta formativa, diversa da scuola a scuola, quindi c'è anche l'autonomia in ballo. Iniziamo a sentire un po' come la pensano. Cominciamo con Cesare, che ci chiama da Torino. Prego, Cesare. Buongiorno a tutti. Io sono un genitore di una bambina della scuola primaria e sono presidente di un consiglio di istituto, nonché membro di uno di questi comitati che stanno scrivendo le regole per la valutazione. per cui mi sono sentito in dovere di intervenire. E su che criteri vi state muovendo? Allora, il grosso problema che abbiamo riscontrato noi è che il nostro è un istituto comprensivo, l'istituto Montessori che fa San Maurizio e San Francesco al Campo in provincia di Torino, che riguarda l'insegnamento dalla scuola materna alla secondaria. Per quindi cui è molto, il problema è trovare, rispetto alle linee guida date dal Ministero, dei parametri che possano essere applicati sia agli insegnanti della scuola materna che agli insegnanti della primaria che alla secondaria. Abbiamo deciso di trovare dei parametri, abbiamo fatto un primo incontro, faremo un secondo incontro per riuscire a definirli questi parametri. Ma nel nostro caso abbiamo pensato di dividere proprio quello che è il monte bonus in tre, trovando dei parametri che riguardino specificatamente la scuola materna, specificatamente la scuola primaria e poi la secondaria. Posso fare una domanda? I docenti rappresentati nel consiglio sono, diciamo, nel complesso, al di là dei loro rappresentanti, verso questa novità, lei percepisce che sono favorevoli o hanno perplessità? Allora, c'erano perplessità che sono state anche fugate da chi all'interno, il membro esterno che ha spiegato quelle che sono state le ultime indicazioni dal ministero. E quello che mi sono trovato nella commissione molto collaborativi. Molto collaborativi. Riuscire a trovare un discorso di parametrizzazione. Allora, grazie intanto anche per averci spiegato che appunto ci sono complessi scolastici che hanno bisogno poi di specifiche cose, perché l'offerta è per gradi diversi di formazione. Sentiamo l'opinione di Nicolò che ci chiama da Milano. Nicolò, prego. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Dica, buongiorno. Grazie, ok, mi sentite. No, io sono un insegnante precario. Volevo dire riguardo a questo che l'idea del comitato di valutazione è ottima perché attua l'indipendenza, l'autonomia scolastica, quindi è giusto che ogni scuola decida autonomamente i suoi criteri. Quello che io vedo come problematico è il fatto che sia poi il dirigente a decidere, e questo secondo me riguarda una visione un po' aziendalistica della scuola che ha l'attuale ministro. Questo è il mio timore. Perché? Perché il dirigente scolastico in tutto ciò è vero che ha delle competenze, però modalità uomo solo al comando è facilmente ricattabile. Beh, ma non credo però che potrà prescindere dai criteri che stabiliscono il comitato. Lei dice però però i criteri sono un conto, come poi i singoli insegnanti aderiscano a quei criteri è tutta un'altra vicenda. Il prezzo che decide Nicolò l'autonomia. Io credo che la sua obiezione, quella per così dire antigerarchica, avrà ampia manifestazione alle scuole. Vediamo se sbaglio, ma io sono abbastanza convinto per la cultura che abbiamo alle spalle negli ultimi decenni. Michele dalla provincia di Milano, sempre, prego Michele. Salve. Allora, essenzialmente io parto da questo presupposto che siccome i docenti devono giudicare i ragazzi, non si possono escludere e tirar fuori dall'essere giudicati. È assolutamente necessario che siano giudicati. In tutte le strutture ci sono delle gerarchie, queste gerarchie si devono prendere delle responsabilità, quindi anche i presidi. Quindi i presidi si prendono delle responsabilità e saranno giudicati a loro volta. Come funzionerà il meccanismo? È poco importante, ma questa è la direzione per avere la scuola migliore. Io sono per parametri certi, misurabili ex ante ed ex post. Lo so che questo significa rompere l'eguaglianza, però il merito bisogna che noi ci abituiamo a costruire delle metriche. Il problema è costruire delle metriche che appaiano il più possibile oggettive, e questo è un po' slippery, come si dice in inglese, un po' scivoloso come tema, quando alle spalle non abbiamo una cultura di questo tipo nella pubblica amministrazione. Oimè, Francesco, dalla provincia di Pescara. Francesco, buonasera, ci dica. Buonasera, ascolti, sono un vecchio insegnante, diciamo che ho 40 anni di servizio, ancora non sono da pensionare. Congratulazioni, la ringrazio per le congratulazioni. No, perché io penso che gli insegnanti, almeno nella mia vita, gli insegnanti che ho incontrato dal primo momento della scuola elementare fino all'ultimo giorno del liceo classico, eccetera, eccetera, mi hanno letteralmente cambiato la vita. Io sono gratissimo agli insegnanti che il caso mi ha messo di fronte, perché mi hanno aperto la testa, quindi questa è la mia opinione personale. Allora, innanzitutto questa nuova legge sulla scuola dovrebbe innanzitutto dovrebbe innanzitutto presupporre quali sono i criteri, perché non abbiamo nessun criterio per misurare il merito. Il merito dovrebbe essere in questo caso un aspetto qualitativo da cui non dover prescindere. Questo aspetto qualitativo il nostro caro ministero non l'ha mai chiarito. Sentiamo su questo che ci dice il presidente dell'associazione presidi. Non poteva essere un po' più precisa l'indicazione delle linee guida del ministero, secondo lei? Ma guardi, innanzitutto è stato previsto un comitato tecnico scientifico che al termine dei 3 anni, dal 2016-2018, dopo un monitoraggio attento delle buone pratiche e individuerà le linee guida attraverso il percorso fatto dagli 8.500 istituti. E quindi i 3 anni che iniziano adesso servono proprio poi a convergere certo. verso il parametro oggettivo. Scommettiamo allora su noi stessi, sulla capacità dal basso di saper convergere su buoni criteri. Devo dirvi la verità, è un grande esperimento. Io mi auguro che tutti cooperino invece di litigare, però ci saranno, inutile illudersi. Continuate con Radio 24, grazie ai nostri ospiti. Appuntamento all'8:15 di mattina con me, Alessandro Milan.